con una spettacolare intervista che Fabrizio Roncone ha fatto a Carla Fracci, quella che ha gridato di tutto in faccia al sindaco Alemanno: mai visto un cigno così. Sì, lo so, ho alzato la voce, il mio corpo ha avuto un atteggiamento un po' aggressivo, ma non ho detto vigliacco e farabutto, ho solo urlato al sindaco Alemanno: vergogna, perché è questo ciò che deve provare, il vergogna. E lo dico, non mi pento per nulla, non mi ha ricevuto per 2 anni e mi diceva quando mi incontrava: signora, non oggi che non posso, ma la settimana prossima. Ma è dura da credere, signora Fracci, il sindaco, le giuro, è stato un comportamento intollerabile il suo. E non è questione di contratto che non mi hanno rinnovato. A proposito, chi mi sostituirà? Un signore di 66 anni. Ah, molto più giovane di me, che ne ho 74. Non confessi l'età, signora. Ma chi se ne importa? L'età non conta. Ho 74 anni. Allora, sono stato nell'ultimo decennio sul palco 397 volte. Infine, la questione dei compensi. Lei ha percepito 2.500.000 euro. E allora? Primo, io non evado le tasse. E secondo, quella cifra è da considerarsi al lordo. E poi provi a farsi 2 calcoli e spalmarla su 10 anni. Carla Fracci, l'étoile, 74 anni, reagisce altro che come un cigno, come un leone. Allora, il GR, votate il sondaggio, evasione fiscale. Togliamo il diritto di voto a chi, non è, a chi evade il fisco, siete d'accordo? A dopo. 24 mattino. Quando sono le 8:21 minuti, eccoci qua con l'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani. Alessandro, buongiorno. Oggi parliamo di sicurezza, di sistemi di pagamento. Allora do subito il buongiorno ad Umberto Rapetto, docente di indagini tecnologiche al Master di Criminologia dell'Università Luke di Castellanza, oltre che ad essere un collaboratore storico del Sole 24 Ore, esperto di pirateria e frodi informatiche. Rapetto, buongiorno, bentornato a Soldi e dintorni. Buona giornata a voi. Lo abbiamo fatto alzare presto questa mattina per commentare con noi 2 notizie. Una, ci arriverò in un secondo momento, è quella relativa al fatto che 23 hacker sono stati arrestati dai carabinieri di Roma nel corso di un'indagine che ha rivelato un'organizzazione transnazionale diretta da esperti informatici e hacker, quasi tutti italiani, che truffavano centinaia di persone da 1 anno e mezzo e riuscivano a ricavare anche diverse migliaia di euro, 1 milione di euro in circa 6 mesi. E poi vi spiegheremo in sostanza che cosa hanno fatto. Agivano in diversi contesti come centri commerciali e negozi di lusso e naturalmente riuscivano a clonare carte di credito e bancomat. Ma la prima notizia dalla quale voglio partire, perché mi era sembrata folcloristica, invece anche come dire oggetto di considerazioni interessanti, è quella relativa al fatto che abbiamo scoperto che la Grecia è la nazione dell'Unione Europea con la maggiore densità di apparecchi per i pagamenti elettronici. Lo ha rilevato una ricerca di CPP Italia, una divisione della multinazionale inglese specializzata nella protezione delle carte di pagamento, che ha stilato la classifica dei paesi dove è più facile pagare con bancomat e carte di credito. Dopo la Grecia c'è la Spagna. Rapetto, sono i 2 paesi con la crisi economica più forte in questo momento in Europa. Per i turisti che vanno là questo significa qualcosa? Beh, certamente quando si respira aria di crisi, ogni escamotage, ogni piccolo trucco può servire per risolvere magari il bilancio familiare. E allora, dato che è diventato facilissimo commettere reati di carattere tecnologico e quindi sfruttare, che ne so, carte clonate e quant'altro, è ovvio che laddove ci sono maggiori strumenti per poter carpire quel genere di informazioni, naturalmente questo va a creare un ambiente tra virgolette sfavorevole. Allora si tratta semplicemente di stare attenti chi andrà in paesi dove ci potrebbe essere fame di quei dati, di quelle informazioni personali, avere l'accortezza di controllare i movimenti strani. Sono le raccomandazioni storiche quelle che ci fanno essere apparentemente maleducati nel voler seguire a tutti i costi la carta e non fare il bon geste di dire tenga e paghi come se fosse nulla, perché qualcuno potrebbe avere la possibilità di fare il cosiddetto skimming e quindi passare quella carta in un lettore fraudolento che ne carpisce il contenuto, anche se purtroppo il momento più delicato è quello della lettura della carta, quando viene così verificata l'identità del soggetto e magari si dice mi faccia vedere dietro sul retro se ha firmato, e in quel momento l'occhio di chi è magari complice dell'organizzazione va a cercare il CCV o il CVV, che è quel numero di verifica. Il che dato sensibile, in sostanza. E quindi, insomma, abbiamo capito che la crisi aguzza inevitabilmente anche l'ingegno dei malviventi. Torniamo a questa cosa invece che è stata scoperta a Roma, a Rapetto, perché appunto abbiamo detto di questi 23 esperti informatici, ma sono dei malfattori naturalmente, che con la collaborazione anche di hacker russi avevano organizzato in 11 regioni italiane appunto una vera e propria rete che poteva agire in contesti diversi. Che cosa avevano fatto? Praticamente pare che alcune donne ingaggiate dall'organizzazione si facevano assumere in diversi centri commerciali, sostituendo poi i POS, visto che dei point of sale stiamo parlando, per carpire e trasferire codici e identità di ignari clienti. Allora, gli italiani usano poco la carta di credito e il bancomat perché hanno molta paura di queste truffe, e però magari anche i più come dire, disponibili ad utilizzarli, Rapetto, poi si scoprono magari vittime di truffe come questa. È difficile difendersi da un POS contraffatto. Ma una delle possibilità di rimedio, una delle difese di basso anche cabotaggio, potrebbe essere quella di utilizzare delle carte ricaricabili e quindi correre semplicemente il rischio di vedersi scippare quel poco che è stato messo a disposizione di quello strumento di pagamento. Teniamo conto che in passato l'idea di avere un portafoglio elettronico non ha preso tanto piede in Italia, si è rimasti ancorati a quelle che erano invece semplici carte che poggiavano su un conto che era poi facile da prosciugare. E quindi utilizzare una carta ricaricabile o addirittura una usa e getta vale nella vita quotidiana, così come vale su internet, dove abbiamo sempre timore che qualcuno sia pronto lì ad auscultare, quasi fosse un medico che vuol sentire il battito del nostro conto corrente, ad auscultare i nostri dati. E naturalmente c'è un fenomeno molto diffuso, che è quello della sostituzione dei POS, che avviene non soltanto facendo assumere qualcuno oppure facendosi chiudere all'interno del supermercato per agire indisturbati la notte, ma è quello di simulare dei furti all'interno dei negozi. Allora, ogni qualvolta che si finisce in un negozio, che lo si trova sconquassato e dice: accidenti, ma io lì volevo fare spesa, poi ci si torna due giorni dopo, se il negoziante dice: ma è andata bene, non mi hanno portato via nulla, accidenti, che cosa sono andati a fare? Potrebbero essere andati lì proprio per sistemare un attrezzo contraffatto. Allora, noi questa mattina il tempo ci è volato, abbiamo dedicato appunto molto spazio nel corso del giornale radio alla morte di questo fotoreporter, quindi non riusciamo ad approfondire questi argomenti, però Rapetto, ci ritorneremo senz'altro a Soldi e Dintorni. Quello che va ricordato è che anche i più irriducibili del contante, se si ruba il portafoglio il denaro sparisce, magari se ci si clona la carta di credito, in sostanza siamo assicurati, la società ci rimborsa e quindi da quel punto di vista siamo comunque più sicuri a dispetto di tutte le frodi che si vanno allargando, sempre di più sofisticando. 10 secondi. O no? No, direi che non è così. Non è proprio così, perché non sempre la copertura assicurativa riesce a dare garanzie che noi auspichiamo. Perché molte volte noi lasciamo all'interno del portafogli, che ne so, il codice PIN o altre informazioni che non dovevano tenere compagnia al supporto plastico. E questo ci deve far riflettere. Dobbiamo imparare ad essere più prudenti, più attenti e avere delle piccole misure di sicurezza che possano aiutare chi gestisce i network di carte di credito a fare il proprio mestiere ed evitare una leggerezza che è così, se vogliamo, supportata dal pensiero: intanto poi un'assicurazione paga, perché naturalmente l'intensificarsi di questo fenomeno ha fatto sì che ci sia anche una maggiore attenzione nella verifica delle dinamiche che hanno portato alla sottrazione di denaro in debito. Grazie, buona giornata, presto. Altrettanto presto. Alessandro, alle 12, Tango Bond, ultima chiamata. Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a te. Noi parliamo di evasione fiscale nel nostro sondaggio. Lo scrittore Antonio Sculati ha fatto una provocazione: togliete i diritti civili a chi evade le tasse. Siete d'accordo? Radio24.it oppure 800 24 00 24 per intervenire. 24 mattino. Sono le 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora parliamo nel nostro sondaggio oggi di evasione fiscale. Io sono o blanco o negro. Gris, lo voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Ieri sulla stampa appare quello che non è un articolo, ma un articolo di protesta. Protesto perché sul piano fiscale la popolazione italiana è divisa in due parti. Da un lato c'è un ceto produttivo, quello a cui le tasse le prelevano alla fonte, dall'altro un ceto di parassiti evasori, per lo più commercianti, liberi professionisti, imprenditori. Protesto perché sono stufo di pagare col mio modesto stipendio di ricercatore universitario la scuola d'elite al figlio del ristoratore dove una volta al mese posso forse permettermi di andare a mangiare il pesce. Perché sono stufo di pagare con quel modesto stipendio la polizia che sorveglia la sontuosa villa del dentista da cui mi sono fatto otturare un dente cariato. Perché sono arcistufo di pagare le strade su cui sfreccia col SUV corazzato il commercialista arricchito o il pronto soccorso a cui ricorre in una notte sbagliata l'imprenditorello impippato. Protesto perché non ne posso più di pagare coi miei 1.500 euro mensili la escort da 2.000 euro a botta al ricastro viziato. L'autore è lo scrittore Antonio Scurati, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che le ha presi in mente? Che è impazzito Scurati, ha fatto questo sfogo? No, io anzi credo che... Io sono meravigliato che questo tipo di così pazzia momentanea non colga più persone più spesso, è abbastanza inspiegabile il contrario, cioè che alcune forme patenti di ingiustizia che vengono subite da centinaia di migliaia e milioni di persone da anni non diano più luogo appunto a manifestazioni di incazzatura, di protesta, di rabbia, non dico di rivolta perché ormai mi sa che quei tempi sono per ora lontani, ma io trovo sorprendente questo, che di fronte appunto a forme di ingiustizia, di vessazione, di scompenso, di spropositi sempre crescenti nella nostra società, siano sempre meno a trovare l'ardire, insomma, di manifestarle anche magari in modo irruento come ho fatto io. E allora lei, questo ha dato spunto al nostro sondaggio, perché lei poi propone, togliamo per esempio i diritti civili, a cominciare dal diritto di voto a tutti gli evasori fiscali. Siete d'accordo? Oggi noi vi chiediamo, so che il direttore Mario Calabresi sulla stampa oggi ha detto sono arrivata una valanga di lettere, il 70% più o meno dà ragione a lei, noi siamo, guardi, all'81% se le fa piacere, 81% dice giusta la proposta di togliere il diritto di voto. Però l'accusa che le hanno fatto è, cioè, questo dividere l'Italia a dire imprenditore o commerciante o libero professionista uguale evasore fiscale, ecco, questa è un... Guardi, non lo dico io, anzi qua ne approfitto volentieri per salutare tutti gli imprenditori, commercianti, liberi professionisti che pagano le tasse. Questa contrapposizione tra categorie è ovviamente sbagliata, ci sono gli individui, però è una contrapposizione che è l'onestà, diciamo così, è un dato individuale, però dal punto di vista della scala sociale è una contrapposizione nei fatti, non sono io a crearla, sono io a casomai a denunciarla, questo è un grande equivoco che si va generando anche questo sempre più spesso, sembra che chi in qualche modo rivela le cose ne sia l'artefice, sono i dati della Direzione Dipartimento delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, cioè se ne potrebbero citare tanti, ma poi sono dati arcinoti, io ne cito uno solo, l'82% del gettito IRPEF nel nostro paese è dovuto a lavoratori dipendenti e pensionati. Vuol dire che l'82% di tutte le entrate dello Stato lo si deve ai lavoratori dipendenti e pensionati. Ora che come categoria i commercianti, i liberi professionisti, gli autonomi, gli imprenditori siano una categoria di evasori fiscali, non come individui, non sono io a dirlo, sono i dati a dirlo. Se la cosa non sta loro bene, non sta bene ancor meno a me che appartengo alle categorie che con il proprio lavoro sostengono lo Stato e la sua capacità di spesa. Io sento già i telefonini che ribollono, no, a queste sue affermazioni, sono affermazioni forti, lo sa. Ma non sono dati di realtà, poi vogliamo interpretarli, vogliamo attribuirgli un significato, io credo ancora, secondo me la cosa che fa scandalo nella vita quotidiana è quella degli stili di vita, che io sottolineo in maniera anche abbastanza colorita, quando io esco per strada e vedo manifestazioni anche ormai ostentate, no, di una ricchezza, che è una ricchezza illegale, sottratta appunto alle regole del vivere civile, tipo le grandi auto, 100.000 auto di lusso immatricolate ogni anno in Italia, 70.000 panfili con più di 17 metri. Quando io le vedo, no, e le raffronto proprio sulla mia pelle alla mia modesta capacità di consumo e di spesa, quello grida vendetta, è quello che fa arrabbiare. È quello che le ha fatto prendere la penna. Sì. Intanto la stanno ascoltando, voglio salutarli, Roberto Ippolito, che ritrovo con piacere, autore tra l'altro di Evasori, chi, come, quanto, l'inchiesta sull'evasione fiscale. Ippolito, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Così come saluto Leonardo Facco, che ribollono i telefoni, forse starà sobbalzando sulla sedia, imprenditore, editore, giornalista, fondatore del Movimento Libertario, autore tra l'altro del libro Elogio dell'evasore fiscale, cosa che forse farà saltare sulla sedia invece Scurati. Facco, buongiorno, che le suscita quello che ha detto e sta dicendo lo scrittore Scurati? Intanto buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ma no, cosa vuole che mi susciti? È la solita cosa, il classico discorso livoroso, pieno di invidia. Io mi sono letto e riletto l'articolo che mi avete spedito ieri, perché ovviamente voglio analizzarlo nel dettaglio. E la prima cosa che appare abbastanza chiara è che in uno come Scurati c'è una totale dissonanza cognitiva per quello che riguarda gli aspetti del vivere normale. Poi non solo, qui entriamo nel dettaglio. Il signor Scurati parla di parassitismo. Allora, dato che l'uso della neolingua è abbastanza notevole in questi anni, grazie proprio perché lo Stato ha bisogno di raccontare balle per far credere certe cose, il parassita, dice il vocabolario, è colui che è privo di vita autonoma e dipende dall'ospite. Beh, in questo caso, riprendendo grandi studiosi come Gianfranco Miglio oppure Max Nordau, la vera lotta di classe effettivamente oggi è fra produttori di ricchezza e parassiti. I parassiti sono coloro che si alimentano alla tetta dello Stato, di cui mi pare i due interlocutori che oggi io ho contro ne sono un esempio lampante. Le crisi che stiamo vivendo oggi sono crisi dello statalismo, tra l'altro chi avesse avuto la bontà di seguire... Cioè il parassita è lo Stato, pochissimi. Insomma lo dica, il parassita è lo Stato, le dice Fabio. Assolutamente, guardi che così. Imposizione fiscale, basta anche qui, riutilizziamo quello che ci ha insegnato Orwell, la lingua vera. Imposizione significa obbligare qualcuno a fare qualcosa che non vuole. Esazione significa tirar fuori con la forza, un sinonimo è estorsione, estorcere con la forza. In questo paese, visto che tutti citano dati, ne cito uno anch'io, che non è soltanto quello che riprendo dal mio libro tratto dagli articoli, dagli studi di Samuel Majar, ma anche dati che riguardano PricewaterhouseCoopers oppure la Banca Centrale Europea. Bene, in questo paese la pressione fiscale varia fra il 65,4% e il 70%, il che significa che i 7 decimi di quello che io produco vengono su da queste e attenzione su indecente incapace. E tra l'altro su questo dico Facco, ieri ho avuto una discussione con Oscar Giannino qui mentre parlavamo, poi Oscar Giannino ha detto ma no, ma come si fa? Io gli ho detto guardi che però se noi paghiamo tutte le tasse magari abbassano le aliquote. No, assolutamente, mi ha detto Oscar Giannino, anche lei dice Facco sarà così, assolutamente, se noi diamo quei 100 miliardi di evasione fiscale allo Stato, lo Stato se li tiene. Anche lei fa con la pensa così. Ma non solo se li tiene, li usa per creare gli anemone, per creare le cricche, perché lo Stato e la casta di parassiti ha bisogno di voti. I voti li si prendevano in un modo prima, attraverso appunto il dare il posto pubblico, il concedere il privilegio, eccetera. E quindi più soldi gli dai, più questi gli sprechi. Più soldi gli dai, più cricche si di creano. Vita autonoma. Allora, no, interessante. Più soldi dai lo Stato, più cricche crei. Mi piace questo slogan, condivisibile o meno. Prima che le risponda Scurati, Ippolito, voglio andare da lei. Insomma, questa è la posizione. Lei condividerà la posizione di Scurati? Condivido ciò che anima Scurati e sono felicissimo che ci sia qualcuno che si scandalizza. Finché c'è qualcuno che si scandalizza possiamo avere qualche speranza che le cose migliorano e che ci siano da migliorare, non c'è alcun dubbio, perché l'evasione fiscale che ha portato al tracollo la Grecia è in Italia pesantissima ed è sotto gli occhi di tutti. Visto che parlavate dei 100 miliardi, che è la stima minima di evasione fiscale, di tasse non pagate in Italia, ricordiamoci che il deficit pubblico del 2009 è 80 miliardi, il che vuol dire che se tutti pagassero le tasse ci resterebbero soldi per ridurre le tasse stesse. Ma Facco dice di no, Facco dice se li tiene lo Stato e alimenta e aumenta il parassitismo di Stato. Visto che abbiamo parlato di termini, lo Stato... chi siamo? Perché lo Stato non è qualcun altro, come dire, che incontriamo per strada per caso. Lo Stato siamo tutti noi. Se c'è parassitismo, tenteremo di migliorarlo, si spera. Se non ce la facciamo vuol dire che qualcuno di noi è perdente su questo aspetto. Le persone che citava incolpandole di essere simboli del parassitismo vivono grazie come dire, ad alcuni sistemi e ad alcune deviazioni, ma siamo ognuno di noi, nel bene e nel male, a dar vita allo Stato, siamo parte dello Stato. È una terminologia, come dire, che non riesco a capire. Lo Stato non è altro da noi, lo Stato siamo Stato noi, siamo che usiamo la scuola, la magistratura, la polizia, le strade. Il problema, Ippolito, è se, e questa è stata la discussione che ho avuto anche ieri con Oscar Giannino fuori onda, se questi soldi recuperati vanno poi nelle scuole, negli ospedali, nella sanità, oppure come dice Facco, ma certo poi tutto da dimostrare, se li tiene invece lo Stato e alimenta invece le cricche, lui dice Facco, gli anemone, insomma la corruzione, il traffico, e poi rientriamo, sentiamo Scurati che replica su questo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, via il diritto di voto a chi è evasore fiscale. Per ora l'82% dice di sì. Vorrei tornare da Antonio Scurati. Mi pare, Scurati, che anche appunto le lettere che sono arrivate alla stampa, di cui oggi rende conto il direttore Calabresi, dicono, le imputano questa accusa di fare un'equiparazione tra ricchezza e immoralità. Lei ha parlato della ricchezza, della ricchezza smodata e probabilmente guadagnata anche in modo illecito, che vede, insomma. Fa questa equiparazione lei? Ricchezza uguale immoralità? Non la faccio io, la fanno alcuni ricchi. Per esempio il signore che ha parlato prima, poco fa, come si chiama? Sacco? Facco, Leonardo Facco. Ecco, e che ha esordito insultandomi, dissonanza cognitiva, livorosità, e riempendosi la bocca di parole così, diciamo, ingiuriose, nonostante tutta la sequela di citazioni. È una manifestazione, per esempio, di inciviltà dialettica, no? Cominciare insultando l'interlocutore, ed è il punto, è proprio questo, è quello della civiltà o dell'inciviltà. Io ho ricordato una cosa che fa indignare, perché spesso è dimenticata, e cioè che questo paradigma per cui il salariato sarebbe un parassita va rovesciato. In realtà il parassita, dal punto di vista della ricchezza utile al bene comune, è proprio il lavoratore che evade il fisco, ed è per lo più, dico, non tutti certo, ma per lo più, dati alla mano, è il lavoratore autonomo, il commerciante, il libero professionista. Allora, se lui si arricchisce per conto proprio, a me non me ne frega niente. Anzi, quando lui ostenta la sua ricchezza in maniera volgare e triviale, può indispettirvi, può generare in me una sana rabbia nei suoi confronti. Quello che conta dal punto di vista della convivenza civile, sottolineo questa parola civiltà, che sembra estranea a molti, è la ricchezza utile al bene comune. Allora, il lavoratore salariato produce ricchezza utile al bene comune, quella che costruisce le strade, le scuole, gli ospedali, di cui poi beneficiano anche i lavoratori autonomi. Voglio dire, l'imprenditore fiscali. No, e guardi che non le faccio questa domanda perché siamo alla radio di Confindustria, però voglio dire, l'equazione è il lavoratore dipendente, lo sono anch'io, fa le strade con i suoi contributi fiscali. L'imprenditore, il commercialista, il libero professionista fa soprattutto evasione fiscale. Non è un'equazione matematica, è una tendenza certificata da dati statistici. Va bene, lei, insomma, Facco, prima di replicare, mi faccia dare due ascoltatori. Pericle d'Ancona, buongiorno, che ne pensa? Buongiorno. Rispetto a quello che ho sentito, mi sembra un'impostazione un po' vetero-comunista delle cose. Sicuramente c'è evasione nell'ambito delle libere attività, libero professionali, imprenditoriali, ma non dobbiamo dimenticare che c'è anche evasione del lavoro dipendente, il doppio lavoro, il lavoro nero. Io sarei anche d'accordo nel impedire, nel proibire di votare agli evasori, purché il fisco diventi più giusto e più equo nei confronti di tutti. Grazie Pericle. Stefano da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Io ho sentito quello che ha detto fino adesso, a parte che togliere il diritto di voto a chi va delle tasse non è un grosso problema, perché penso che già il 70% dei commercianti e dei piccoli imprenditori non vadano a votare. Addirittura, questa statistica lei da dove le viene? No, insomma, 70% dei piccoli imprenditori non votano. Guardi, è una statistica del tutto personale. Ah, ecco, però appunto. Penso che tanta gente, a 10 amici che sono piccoli imprenditori e 7 non votano, questa è la statistica. Vabbè, comunque dico. Vabbè, comunque se non saranno 7 saranno 5, comunque penso che tanti al telefono condividano la mia opinione del tutto, ripeto, personale. Poi, visto che c'è la provocazione di togliere i diritti civili a chi appunto evade le tasse, io farei una controprovocazione: si potrebbero togliere anche chi le tasse le applica ingiustamente o comunque senza che i piccoli imprenditori capiscano il perché, alle camere di commercio che ti portano via dei soldi per diritti, rimborsi. Lei è piccolo imprenditore? Beh, si è capito? Sì. No, ma... Comunque va bene, togliere, insomma, fare la controproposta, dice Stefano Varese. Chi le tasse le toglie? Facco, epuriamo effettivamente gli attacchi personali. È partito un po' lancia in resta, no? Nei confronti. Ma, scusi, ma lancia in resta, ma guardi, io non sono abituato a camminare al passo dell'oca. Voi mi chiamate e mi conoscete. Cioè, io ma certo, ma lo fiscale. So, ma lo so, ci piace. Io non ho insultato il signor Scurati. Se il fatto che io metta il dito nelle sue contraddizioni dopo aver letto 3 volte il suo articolo, cosa vuole che le dica? Io sono fatto così, dico la verità e mi fa piacere essere scomodo. Però contrasti così questo da ricordarle. Quello che Scurati ha detto, cioè il lavoratore dipendente produce la ricchezza che produce poi, produce le strade, se serve contribuisce agli ospedali, alle strade, cioè, l'evasore fiscale allora, no. Allora, intanto cominciamo a se vogliamo essere e fare... le analisi assottigliate, in Italia non esiste nessuno che non paghi le tasse, dato che l'IVA, che è il 20%, la si paga su qualsiasi cosa. Quindi l'idea di togliere dei diritti civili, a parte che è ridicolo, io non voto da 20 anni e noi proclamiamo di non votare per non legittimare questa casta, quindi non è che me ne frega poi tanto, ma che non paghino le tasse in questo paese è impossibile, nessuno può non pagare le tasse, perché tutto è gabellato in questo paese, esistono circa, ragionando fra commercialisti, dalle 1600 alle 2000 gabelle, tra dirette e indirette, quindi è impossibile. Ma io vado oltre nelle mie provocazioni. Guardi che lunedì scorso un tale Michele Salvati, che non mi sembra essere un libertario, sul Corriere della Sera ha ricordato che se questo paese sta ancora in piedi è grazie al fatto che c'è qualcuno che non dà soldi allo Stato, perché sottrarre soldi allo Stato significa mettere vera ricchezza in circolo, cose che non ha detto soltanto lui, perché lo ha citato tra le righe lunedì scorso, cose che dicono da molto tempo premi Nobel come Friedman oppure ex ministri della Repubblica Italiana come Antonio Martino. Ma ancora, andiamo avanti su questo discorso perché è fondamentale ricordarlo, la questione di Scurati, c'è sempre che uno li mette in sempre uno Scurati, che li mette in circolo, sa cosa dà fastidio a Scurati, che uno magari non li mette in circolo ma si compri il Panfilo da 17 metri comprandosi il Panfilo darà lavoro a chissà quanta gente comunque costruisce il Panfilo. Comunque l'indotto questo, del Panfilo. No, finiamo un attimo il discorso sul lavoro dipendente. Io, guardi che nel Movimento Libertà ci sono molti stipendiati con meno di 1500 euro, che la pensano esattamente come me. Guardi che il Movimento Libertario è quello che fa la battaglia contro il sostituto d'imposta. Cioè noi abbiamo un imprenditore, Giorgio Fidenato, che dà tutti i soldi in busta paga al dipendente. L'abbiamo avuto ospite anche noi, ma certo. Affinché il dipendente sappia che cosa gli porta via lo Stato. E concludo così poi... Nell'articolo di Scurati c'è la parte finale che però mi trova assolutamente d'accordo, nel senso che lui cita l'America, poi dell'America non so cosa conoscono, basterebbe leggere l'ultimo libro di Marco Bassani, dalla rivoluzione alla guerra civile, per capire cos'è l'America. No taxation without representation, il che significa questo anche: io non voglio pagare le tasse perché non voglio essere rappresentato da quei signori. Io su questo sono d'accordissimo. Il guaio è che in questo paese, se qualcuno dice Cristo, facciamo la secessione da Roma ladrona, no? Una volta dicevano queste cose, oggi fanno il contrario, immediatamente lo mettono in galera. Beh, allora io invece rivendico il mio diritto di libero individuo di creare la mia libera comunità, senza fare del male a nessuno, senza voler usufruire degli ospedali pubblici. Senza voler usufruire della scuola pubblica. La libertà è facco. Ippolito, io ho 30 secondi, devo chiudere su questo, però. Che ne pensa? Insomma, è una provocazione fine a se stessa? Tremonti? Tremonti, però. Le farà piacere, insomma, Tremonti ha detto ora gli evasori tremino, no? Arriva anche la lista Falciani. Gli evasori tremeranno se i controlli si faranno e se la riscossione funzionerà. La provocazione non è di Scurati non è affatto una provocazione, è una cosa importantissima. Riuscire, prima ancora delle sanzioni amministrative o penali addirittura, riuscire a isolare nella società gli evasori che fanno un danno alla collettività e nel caso degli imprenditori e gli evasori, gli imprenditori fanno concorrenza sleale agli imprenditori onesti, e questo va assolutamente detto, è una cosa importantissima, per cui io direi un grande grazie a Scurati. Naturalmente poi tutti i dati si possono discutere, ma ne vorrei ricordare uno: sì, un contribuente italiano su 4, 11 milioni di contribuenti, paga imposte pari a zero. Dove sono tutti questi 11 milioni di poveri? E questa è la domanda che ci si pone sempre. Grazie a tutti, Antonio Scurati, Leonardo Facco e Roberto Ippolito, per essere stati con noi. Sara Spreafico in redazione, mentre oggi in regia c'è il nostro Filippo Aureggi, il nostro Pippo DJ. Rimani con Oscar Giannino? Sì, no. Allora, io do la linea comunque a Oscar, che si sarà arrabbiato un po'. A domani.